Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 13. Prima il creatore ti lascia cadere. Vuole completamente il tuo cuore. Non accetta il no per una risposta, o forse. Quindi puoi avere la sensazione che il creatore ti sta bastonando? Ma cosa fai con i momenti di piacere? Gridi per lui allora? No. E la conseguenza è che tu stai ancora in piedi. Ricorda questo. Ogni volta il creatore ci mostra un piccolo frammento nel nostro ego, la nostra parte non corretta. Quindi, ora hai del lavoro da fare? Questo è il lavoro che dobbiamo fare, quello che stai facendo come lavoro. Come vita, è per l'essere esterno. E naturalmente anche questo è necessario. Ma il lavoro interiore è il lavoro più importante che hai. Cos'è questo lavoro ogni volta che si devono fare correzioni dall'interno? È l'istruzione dall'alto. Ogni persona, non importa da dove viene, deve lavorare su e con il suo interiore. Nessuna persona è libera da questo lavoro. Sii felice quando ti senti solo. Hai del lavoro da fare. Il Creatore è lì per te, per aiutarti con le tue correzioni. Quando scappi, non raggiungerai l'obiettivo. Tutta la spiacevolezza è il tuo salvataggio. Egli non ti lascia dietro come un piccolo bambino, come qualcuno senza conoscenza. Tu senti la carenza. Come puoi scoprire questo facendoti piccolo, minuscolo dall'interno? E lo stai facendo solo per lui, per il Creatore. Quando ti senti forte, anche egli è forte. Cosa sta succedendo? Due forze potenti stanno venendo insieme e si respingono l'uno e l'altro. La luce non può entrare. Solo facendo te stesso come un calcare. Ti ricordi ancora? Solo quando sei come una cera, la luce può entrare. Chi è il resistente? Il tuo stesso amor proprio. Il tuo amor proprio ti chiude il cuore per il lavoro interiore. Coloro che sono forti hanno più resistenza ed è per questo che si ammalano. Perché? Per rompere la resistenza. Quindi riceve l'aiuto dall'alto. Così ora non può dire la Torah e le prescrizioni. E le buone azioni sono con il Creatore. Era lui sta mancando qualcosa. Si riceve tutto l'aiuto dall'alto solo quando ci si sente tutt'uno con il re. Riceverai la sua forza e lui ti solleverà. L'unica cosa che dobbiamo fare è obbedire alle sue leggi. Quindi stiamo imparando le leggi di questo potente re, l'unica forza creatrice che vive per sempre. In un certo senso, siamo tutti partecipanti a questo unico re. Quando arrivi a questa comprensione, vedere e accettare questo, verrai a sperimentare lui. Nessuno potente che possa essere non può scappare o negare questo. Ma lui, lei che sta leggendo questo, è molto più vicino al Creatore. Lo stai facendo con le tue forze, ma questo è anche il desiderio del Creatore. Siamo tutti servitori del Creatore. Ma chi sta lavorando su di sé ha una maggiore libertà nel suo lavoro. Tutte quelle persone potenti, i leader mondiali, essi adempiono al suo desiderio come una persona cieca. Solo sono come pupazzi su una corda. Ma noi stiamo guardando, cercando per venire in contatto con la forza creatrice. E questo è ciò che sperimentiamo, quello che sentiamo, la venuta in conformità con l'unica forza creatrice. E noi non vaghiamo più a lungo in questo mondo. Tu stai sperimentando la sua forza e tu vedi che lui è buono. Puoi vedere il bene nella sua forza perché sei uno con lui, uno con la forza creatrice, così ora puoi andare ovunque perché questa sensazione è dentro di te. Ovunque tu vada, sentirai la connessione con lui. Questa sensazione viene dal profondo e sai che rendendoti piccolo, minuscolo, non lo perderai. Non giudicare te stesso, lascia che il Creatore sia il tuo giudice. Quando si dà nel mondo giusto, si riceverà 10 volte. Il prossimo argomento è Tes, Talmud Eser Asferot. Questa è un'abbreviazione per Talmud Eser Asferot, o l'insegnamento delle 10 Sferot. E chiamiamo questo Tes. Tes è l'insegnamento delle 10 Sfirot. Senti la radiazione arrivare da questo lavoro. Tes è composto da 16 parti. E questa scrittura è un commento sull'albero di vita. Il famoso libro di Ari, composto da circa 2.000 pagine. Prima di tutto bisogna aiutarsi alla lingua. La traduzione è letterale e quando si passa del tempo si arriva al sentimento. Es non è un libro di apprendimento, ma una guida, un libro di riferimento per arrivare a una migliore comprensione dello Zohar. Quindi iniziamo con questo libro. Il testo di Ari è sigillato. Quando leggi queste parole di Ari, anche senza capire, una luce enorme verrà a te quando ti fai piccolo. Chiedi al Creatore per comprendere perché all'interno delle lettere il Creatore nasconde se stesso. Leggendo le lettere, scansionando le lettere, tu attiri la luce. Il Creatore è luce. Qui hai la luce pura. E in nessun altro posto troverai questo. Or primi, è un commento, all'albero della vita. Orpnimi significa la luce interiore. E il commento viene da Yehuda Ashlag. Le lettere in grassetto sono di Ari e il testo è di Yehuda. Ogni parola ebraica ha forza. È per Yehuda Ari. E per Yehuda Ari era la sua fonte. Il primo testo. Sai, prima che le creature fossero create e create le creazioni, la singolare luce alta riempiva l'intera realtà. Non c'era posto libero nella forma di aria, vuoto e spazio. Anche se ogni cosa era saturo con la singolare luce, senza fine, e non c'era inizio o fine, ogni cosa era unica, singolare, luce completamente omogenea, e il nome è luce infinita, Ein Sof. Prima che la creazione fosse creata, la luce riempiva l'intera realtà. Prima c'era solo luce, luce infinita, e questa luce riempiva ogni cosa. Poi la luce ebbe un pensiero, la forza per limitare se stessa. Perché? Per creare. Quando tutto è luce, come può creare la luce? Questo è possibile solo con la limitazione. Prima deve esserci la limitazione e quindi tu puoi fare qualcosa. Questo è stato il primo atto della luce. E noi dobbiamo fare lo stesso. Quando vuoi qualcosa, prima devi limitarti. Allora puoi andare oltre, ma prima devi creare qualche spazio. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare spazio. Ogni cosa che tu impari e leggi nella Kabbalah non ha niente a che fare con il tempo o il luogo. Ogni cosa è spirituale. Non provare a capire. Non c'è assolutamente comprensione con la tua testa. In un certo senso, la tua testa è la fine. La tua testa ti sta limitando. che ogni cosa che stiamo imparando nella Kabbalah è l'insegnamento dell'infinito, perché solo quello che è finito può essere afferrato anche tramite l'infinito. Quindi la testa non può arrivare alla comprensione dell'infinito. Abbiamo bisogno della fede di credere oltre la comprensione. Quindi possiamo arrivare alla comprensione. Si deve andare oltre la comprensione, oltre la tua comprensione terrena. Quando una persona inizia a costruire lo spirituale dentro di lui, dovremmo vedere intorno alla testa un'aura. Ogni persona ha un'aura. Guarda vecchi dipinti o altri ritratti. Questa luce dell'aura deve venire dentro di te. E quando questo accade, già piccole correzioni hanno avuto luogo. Questa aura è sospesa attorno alla testa di ogni anima. E dobbiamo portare questa luce all'interno. Questa luce di questa aura deve venire dentro di te. E finché non è entrata, sei ancora seduto nel passato, non vivi nell'ora. Certamente ci stai provando duramente, ma solo quando fai posto per questa luce che ha attorno ogni persona, allora può entrare in te. Devi fare posto per ricevere questa luce. Ma a causa del tuo ego, e l'ego ti dice di essere forte, allora tu dici io sono io. E allora l'aura, la luce rimane fuori di te. Ogni persona ha questa luce, l'aura intorno a lui. È molto sottile, sottile. E leggendo questo testo è tutto il lavoro spirituale che fai. Questa luce attorno ti entra. Più lasci entrare la luce, e la luce dell'aura diminuirà. Perché hai già preso la luce, un parte della luce. Questo è il tuo atto di creazione considerando te stesso. La tua aura fluttua intorno a te solo perché tu non lasci entrare l'aura. E questo è dovuto al tuo amor proprio. A causa della tua testardaggine terrena, non hai posto per il tuo vero io. I grandi cabalisti l'avevano portata alla luce. Loro potevano vivere nell'ora. Loro potevano sperimentare il Creatore. Potevano parlare con il Creatore. Non hanno bisogno di incarnarsi loro, sono preparati. Non hanno bisogno di incarnarsi, loro sono preparati. Quando tornano, non è per loro. Impareremo anche questo. L'aura è la tua, ma tu non la sperimenti ancora, ma a causa del ascolto. Passo dopo passo la prenderai. per mezzo del tuo lavoro spirituale che stai facendo in questo momento, allora anche tu ti unisci insieme con la luce. Qual è la fusione di cui stiamo parlando? È la sensazione che tu stai insieme con il Creatore. Allora non c'è la consapevolezza più di tempo o luogo in questo mondo. Ari sta parlando a noi da questo posto. Il grande Yuda Ashlag parla a noi dall'uomo che aveva già preso l'intera aura. E noi siamo persone in cui l'aura è appesa fuori. Abbiamo l'elenco fuori di noi, con la nostra aura. E lui sta parlando a noi dalla sua prospettiva, ossia dall'aura che è già dentro. Lui era pronto, non sentiva più il tempo o il luogo, ma poteva vedere da lì. Quando lavori dall'interno verso l'esterno, significa che hai corretto te stesso anche dall'interno. Anche tu puoi prendere la luce dall'esterno. Allora anche noi sentiamo che non c'è tempo né luoghi, ma solo la coscienza dell'ora. Quindi, leggendo questi testi, la tua aura sarà accolta, la tua aura, non l'aura, la tua aura, non l'aura del tuo vicino o partner. Nello spirituale non ci sono delusioni né cambiamenti. Tutti i cambiamenti di cui stiamo parlando non significa che la prima condizione scompare e riceve un'altra forma. Niente scompare nello spirituale. E questo significa che quando sperimenti qualcosa e dopo hai un'altra esperienza, devi sapere che la prima esperienza è ancora lì. Tutte le tue esperienze esistono sempre. Stai cambiando per mezzo del tuo lavoro spirituale. Andrai avanti, ma la prima esperienza esiste ancora. O quello che era prima che tu iniziassi resta sempre esistente. Questo è in contrasto con il nostro pensiero terreno. Pensiamo che quando muoviamo, una cosa è sparita dal luogo da dove l'abbiamo portata via. Ma non nello spirituale, non c'è scomparsa nello spirituale. Quindi, quando inizi a lavorare su te stesso, non si perde niente, si riceverà di più in più. Lentamente questo pensiero deve essere portato nel tuo cuore, passo dopo passo. Devi fare posto a nuovi pensieri, un altro schema di pensare. La prima volta che leggi questo, non ci sarà per niente comprensione, ma rileggendo e con il desiderio nel tuo cuore, questo ti aiuterà. Allora anche tu verrai all'esperienza. Ma devi ricordare questo. Non c'è scomparsa nello spirituale. Tutti i cambiamenti sono in più. Ogni esperienza è molto preziosa, rimane per sempre in esistenza. stai solo aggiungendo sempre di più e di più. Nulla scompare. Quando si parla di cambiamenti nella Kabbalah, intendiamo è stato aggiunto qualcosa. Non devi avere paura di perdere qualcosa di te stesso. Ogni desiderio, ogni aspettativa che hai, rimarrà. Esisterà sempre, nessuno potrà portarlo via da te. È la persona comune che ha paura che qualcosa gli verrà portato via da lui. Nulla sarà portato via da te, ma solo aggiunto, solo più e più esperienze. Arriverai a vedere la vera persona che tu realmente sei. Un nuovo sesto sentimento arriverà a svilupparsi dentro di te stesso. Un sentimento per lo spirituale, e nessun altro può darti questo. Non ti è stato dato per nascita. Questo è qualcosa che devi sviluppare attraverso la tua esperienza. Ognuno di noi deve portare questo allo sviluppo. Cambiamenti nella Kabbalah significa che hai ricevuto nuove condizioni aggiuntive, ma le prime condizioni originali non sono cambiate. Tutti i cambiamenti e gli extra sono solo nel materiale, non nello spirituale. Ma sebbene non siamo nello spirituale, possiamo sperimentare certi elementi. Tutti i tuoi movimenti interiori sono come un prototipo dello spirituale è integrato con integrazione di materiale. E questo è molto difficile da capire per coloro che sono appena agli inizi con il vero lavoro spirituale. È Ari che ci sta avvertendo. È duro all'inizio, quindi dobbiamo superare. Una nuova osservazione deve crescere in noi stessi, così una nuova apertura può essere fatta, e questa nuova apertura ci dà la possibilità di sperimentare in un modo nuovo. Ciò che era prima verrà, ora sperimentato in un altro modo. Per prima cosa siamo occupati solo con tecniche e tutti i tipi di termini. Questa all'inizio è la nostra limitazione. Siamo qui nel mondo materiale, seduti nel tempo e spazio, e questo dobbiamo superare. Devi sapere, un cabalista sta parlando dello spirituale, ma usa termini terreni, ma sono solo simboli. Sono indizi da sopra, dalle radici spirituali. Tutte le parole che usiamo come Abraham, Sara, Giacobbe, ha fatto questo, Abraham ha fatto questo e quello. Il parlare di ebrei, Quando sentiamo la parola ebreo, pensiamo al popolo ebraico che vive nel nostro mondo. Ma la Torah non parla di questi ebrei terreni. Anche il Nuovo Testamento non parla di persone in carne e ossa, solo di idee spirituali. Sei tu che devi venire alla comprensione, devi trovare il significato dietro le parole. Arriva la luce discende. Ma la luce non si muove mai. In realtà la luce non si muove mai. Non riguarda la tua religione. Non è la religione con cui sei cresciuto. Questo ti limita. Devi venire alla fede attraverso la comprensione, attraverso l'esperienza. Solo allora la luce può entrare in te. Prova a sperimentare ogni frase che leggi. Leggi di nuovo. Leggi lentamente e senti. Sperimenta le parole in profondità dall'interno. Devi lavorare sodo. Ancora e ancora devi lavorare molto duramente. Cercare di arrivare alla comprensione è il fare di ogni tuo sforzo ci dà luce extra. Leggi i concetti, rileggili, poi arriverai alla comprensione. Questo è apprendimento. Non andare oltre se non sei arrivato alla comprensione del primo testo. Ripeti i nomi, le parole, lascia che ci entrino. Perché? Questa è la costruzione dei tuoi kelim. Questo è il formarsi dentro di te di nuovi organi di consapevolezza. E questo arriverà rileggendo il testo ancora e ancora. Essere paziente, questo è molto speciale. Lezione 13. Questa lezione si è svolta il giorno di Santo Stefano 2004. Quando è avvenuto lo tsunami, grande tsunami in Asia. Quindi questa è una lezione molto speciale. Questa è la lezione 13. 13 è un numero bello e non un numero sfortunato come la maggior parte di noi pensa. Al contrario, è un numero di grande successo. Non essere impaurito per questo numero. Il numero 13 sta a portarti buona fortuna. Porta solo bene. È un numero molto buono. Vedi, un'altra persona che ha costruito le proprie forze dentro di lui. E ora il tuo ego vuole succhiare questo via dall'altra persona. Vuoi avere una parte della sua forza, ma vi prego di notare, Tutto questo succede in maniera inconsapevole. E stiamo ancora crescendo. È l'ego che sta facendo questo. Perciò chiedo a tutti a voi di prendere coscienza di questo. Stai tranquillo quando la lezione è finita. Non parlare con qualcun altro. Quando hai una domanda, fallo più tardi, per email o qualcosa del genere. Ma non qui. Prova ad andare via in silenzio. Poi ognuno di voi può portare con sé ciò che ha ricevuto, e questo accadrà quando si esce in silenzio. Ogni cosa che sta accadendo fuori di noi è molto importante. Nessun cabalista si separa dal mondo. Vive nel mezzo della miseria perché anche lui è un prodotto del Creatore. Ogni cosa che sta accadendo è un segno dall'alto. Per noi è accettare e non dire non mi piace o non posso accettare questo. In un certo senso dobbiamo essere guerrieri che stanno imparando ad agire nel mondo giusto. Non agendo come uno struzzo, ma di confrontarci con il soggetto. Volevo continuare con il libro. Ma a causa di ciò che sta accadendo, ora mi piace anticipare ciò che sta succedendo. Un vero cabalista anticipa ciò che sta accadendo intorno a lui. Sta imparando da quello che il giorno sta portando a lui e lo guarda e fa i collegamenti con l'Eterno. Anche tu devi imparare a fare la domanda che viene dall'interno e rispondere a loro con il tuo interiore. Non restare troppo a lungo nel dolore o tristezza. Devi lavorare su te stesso. Quando rimani nel dolore o nella tristezza, non stai lavorando su te stesso. Devi vivere nel momento dell'ora. Quando rimani nel passato, allora non c'è appetito per la vita. Rimani nell'ora. Questo ti porterà felicità. Non per un breve momento, ma per sempre. Non solo per il dopo di qui, ma ora. Vivi ora e sperimenta la felicità che hai oggi. Possiamo imparare da qualsiasi cosa. Ci sono tre tipi di persone, specialmente. Da questi tre tipi di persone possiamo imparare molto. Quale tipo di persone intendiamo? Per prima cosa abbiamo la persona la cui immaginazione è enorme, un fantasta. Poi abbiamo il bodybuilder. Possiamo imparare ancora di più da lui. E l'ultimo è il ciarlatano. Anche noi possiamo imparare molto da lui. Le risate sono udibili dagli studenti che frequentano la lezione. Ma io sono molto serio. Noi possiamo imparare da ogni cosa, non sentirti offeso. In tutto c'è apprendimento. Colui che ha molta immaginazione, un fantasta, è qualcuno che non vuole vivere qui sulla terra. Sta cercando e prova tutto. Lui è molto creativo e cerca di fare tutto ciò che non è conforme con il comune. Si sta sforzando per qualcosa che non riesce a trovare nella realtà. E anche noi possiamo imparare molto da questa persona. In un certo senso siamo come lui. Non abbiamo contatti con il Creatore, anche se crediamo che ne abbiamo. Ecco perché possiamo imparare molto da lui, da colui che ha molta immaginazione. Anche noi abbiamo una certa idea del futuro. Qual è il futuro? Ho parlato nell'ultima lezione sull'aura che è sospesa intorno alla nostra testa. La luce circostante che dobbiamo portare dentro. Interno non dall'esterno. Tutto è dall'interno. L'aura che circonda la testa ci dà una sensazione speciale e questa sensazione è il futuro. Cosa possiamo imparare dal bodybuilder? Disciplina. Un bodybuilder costruisce il suo corpo, ha un certo obiettivo. Forse ha voglia di vincere una medaglia d'oro. Quindi fisicamente sta costruendo il suo corpo, ma questo ha un risultato anche nell'interno. Siamo anche noi, come costruttori del corpo, solo per lo spirituale. Stiamo costruendo lo spirituale nello stesso modo in cui il bodybuilder sta facendo con il suo corpo. Sta lavorando sull'esterno, i suoi muscoli, eccetera. Si sta allenando e allenandosi per diventare più forte e più forte. Ha una dieta speciale, ha bisogno di molta disciplina e sta imparando questo. Noi stiamo facendo esattamente lo stesso, solo non dall'esterno, ma dall'interno. Stiamo costruendo il nostro interiore in modo che l'interno diventi ampio e grande. Ma la differenza è che quando il bodybuilder si ammala, è come un bambino piccolo. Si lamenta, si sente debole, eccetera. Ma non noi. Certo, possiamo ammalarci, ma non ci lamentiamo. Ci comportiamo come guerrieri. Ma entrambi lavoriamo in un modo molto disciplinato. Non mangiare cibo spazzatura, eccetera. Solo l'intenzione fa la differenza. L'obiettivo è diverso. Quindi possiamo imparare molto da un bodybuilder. Quello che manca è il ciarlatano. Un ciarlatano è molto importante. Qual è la caratteristica di un ciarlatano? In modo molto subdolo, raggiunge il suo obiettivo. Inganna un altro per raggiungere il suo obiettivo. E anche da questa persona puoi imparare molto perché nello spirituale hai a che fare con il tuo ego. E l'ego è molto più forte di te, quindi sai che l'ego vuole avere la vittoria e devi essere molto furbo. Non spezzare l'ego, non avere l'intenzione di spezzare l'ego, ma sei tu che devi vincere sull'ego. Devi combattere con il tuo ego, ma non con l'intenzione di spezzarlo. Quindi hai bisogno della furbizia del ciarlatano. Qualcosa deve rimanere dell'ego perché dalle avanzi arriverà alla fine la luce più forte. Quindi può imbrogliare l'ego, ingannarlo e giocare una partita con lui. In un certo senso devi essere molto cosciente del tuo ego, come un ciarlatano. Ora vedi che puoi imparare molto da questi tre tipi di persone. Accetta tutti i segnali perché questi segnali provengono dal Creatore. Tutti i disastri, tutta la miseria è dovuta a questa nazione e per il bene di questa nazione. Cosa significa questo? Non imparano, trascurano di imparare la parte segreta della Torah. Quindi vediamo tutti i terremoti, tutti gli tsunami e altro, e ce ne saranno di più. Enormi disastri arriveranno. Si può vedere questo quando si guarda al sistema operativo dell'universo. Noi possiamo e riceveremo la vita eterna. Questa vita non è mutevole e tutto proviene dall'alto. Dobbiamo lavorare qui sotto, dal basso. Dobbiamo po portarlo sopra. Questo si chiama man, nell'ebraico Mayim Nukvi, acque femminili. Man è una preghiera delle condizioni di oggi, dell'ora. Una preghiera è compiuta in tempo e tu stai mirando sopra al conseguimento per l'eternità. La reazione verrà dall'eternità. La risposta ti sarà data nel contesto dell'eternità. Quindi ora puoi vedere cosa accadrà. Un cabalista può vedere più di un profeta, perché un cabalista vede la verità. Lui sta osservando durante il giorno. Verrai alla comprensione del meccanismo di tutti i disastri e puoi avvertire le persone sull'eventualità che sta arrivando un disastro. Ascolta attentamente. Porta via tutta la tua resistenza. La resistenza viene dal tuo intelletto. Ho bisogno delle parole del mondo materiale. Ma non sto parlando di questo mondo. Non cerco di capire questo in modo intellettuale. Tutto è da dentro, l'intero, l'interno. Ricorda questo. Mi piace raccontarti la ragione, il vero meccanismo. Quindi hai uno strumento che ti aiuta a stare fuori da un disastro. E anche tu puoi avere una certa influenza sul tuo ambiente. Tutto sta nelle mani delle persone. E non nelle mani di angeli o qualsiasi altra cosa. Il superiore non sta mandando a noi un disastro. Lui è buono, assolutamente buono. Togli via la tua resistenza. Ascolta con il tuo interiore, perché questo è molto difficile. Abbiamo un sacco di variabili. Non possiamo ancora vedere chiaro perché non siamo pronti con le nostre correzioni. Ti ho già detto riguardo al posto vuoto che venne nell'essere dopo che l'ensof se n'era andato. L'Ensof aveva lasciato un certo posto e successivamente lui ritornò, ma solo poco a poco. Tutto è luce rotonda. Igulim. E c'è la luce diretta Oriashar. Prima c'era la luce, Ein Sof. Ritira se stesso per creare spazio. È il seguito di ciò che accade fu il ritorno come luce diretta Oriashar. L'esempio di un imbuto lo rende molto chiaro. Guarda il disegno alla fine di questa lezione. Tutta la luce viene dall'alto e si diffonde come luce rotonda. Puoi confrontarlo con l'ampia apertura dell'imbuto. Questa luce si diffonde verso l'interno, come l'irrigazione a goccia, goccia a goccia. Piccole parti della luce stanno venendo verso l'interno attraverso la piccola apertura, fino a raggiungere l'obiettivo, la luce diretta or Yashar. Prima abbiamo il mondo di Adam Kadmon, il primo mondo, e poi il mondo di Azilut, il secondo mondo. Ci sono cinque mondi spirituali, come abbiamo menzionato prima. Cosa intendiamo con cinque mondi? I mondi sono grossolanità della luce. All'interno del piccolo punto abbiamo l'universo, il cosmo. Questo è il più basso, il più rozzo, considerando i punti di forza. Prima c'era la luce rotonda e poi la luce diretta. Ein Sof creò il mondo. Tutte le creature possono ricevere la luce rotonda. Ogni cosa riceve la luce rotonda. Puoi paragonarlo con il nostro sole che splende e ognuno di noi, l'intera natura. Ogni cosa riceve lo splendore del sole. La luce rotonda è il minimo che uno riceve, e questo conta per le piante, gli animali, le pietre, eccetera, così come per tutti gli esseri umani. Tutti ricevono questa luce rotonda per rimanere vivi. Ogni cosa ha bisogno di questa luce. E noi chiamiamo questa luce Or Nefesh. Questa è la più rotonda luce che ognuno riceve. Egli è misericordioso. Ogni cosa riceve questa luce, Or Nefesh, la luce diretta, Or Yashar, è solamente per il genere umano. Questa luce diretta, Or Yashar, è il nostro contatto con le forze più elevate. Questa luce ha cinque grossolanità. Prima che gli uomini fossero creati, questa luce era già introdotta e noi dobbiamo fare lo stesso. Solo l'uomo può ricevere la luce diretta o riasciare. Più lui può evocare questa luce. Il nostro mondo è la terra, è il paradiso. Pensa agli aeroplani che volano in aria. Anche il nostro mondo ha la luce rotonda. Tutto quello che è qui sulla Terra ha la luce rotonda. Tutte le quattro forme in natura, inanimato, minerali, piante ed erbacei. Gli animali e l'essere umano, tutti loro ricevono la luce rotonda. La luce diretta, Or Yashar, viene da Ein Sof. Non è la luce Nefesh, ma è molto più forte. Dopo la luce di Nefesh viene la luce di Ruach. La luce Ruach è più forte della luce di Nefesh. La luce Ruach è una luce forte e ci dà più potere di vita. È una luce molto intensa, molto più qualitativa. L'essere umano sta considerando la sua forza spirituale. Qui sulla terra, come l'Ein Sof sta considerando lo spirituale. Questo significa Noi come esseri umani abbiamo un compito creativo, considerando i mondi sotto di noi, il regno animale, il regno vegetale e il regno minerale. Questo è il significato di ciò che abbiamo appena detto. E quando leggerai ulteriormente, ti diventerà più chiaro.